Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la prima della settimana. E allora, come ricordavamo nel GR, lo dico in maniera il più neutro possibile, perché qua ragioniamo di numeri e cifre, è inutile che qualcuno già scriva, ecco, siete la radio dell'opposizione. Restate sul pezzo e sulle cifre e sui numeri, che adesso vi leggerò. Chi voleva una reazione dai mercati oggi è stato accontentato, nel senso che è bastato che Giuliano Ferrara, uomo e giornalista molto vicino al Premier, dicesse alle 12 che Berlusconi sta per cedere il passo, ed è una cosa ormai acclarata, si tratta di ore, ha detto Giuliano Ferrara nell'edizione online del Foglio, qualcuno dice perfino di minuti. Ecco, questo è bastato per portare una borsa che perdeva l'1% in rialzo, non grandi cose, però insomma l'unica borsa positiva in Europa è Milano, è più 1,40%, Parigi meno 0,40%, Francoforte meno 0,50% e Londra meno 0,50% anch'essa. Ma soprattutto hanno cambiato passo i rendimenti dei BTP e lo spread con i rendimenti tedeschi, ma in maniera netta. Anche qui vediamo di capirci, uno spread a 470 è ancora un livello altissimo, nessuno dice il contrario, però siccome era arrivato quasi a quota 500 questa mattina, un record storico anch'esso, vedere che sulla base delle voci di dimissioni imminenti del Presidente del Consiglio lo spread scende di 20 punti e anche i rendimenti è un segnale inequivocabile, piaccia o non piaccia, cerchiamo di non fare sempre tifo partigiano ma di ragionare sulle cose. Poi tutti d'accordo che 470 è un livello ancora altissimo, ricordo che a inizio agosto, quando la crisi sembrava ingestibile, quando si fece la manovra d'emergenza, a inizio agosto lo spread toccò un livello di 416 e sembrava una cosa, no, incredibile. Adesso siamo a 470 e siamo contenti perché era arrivato fino a 498, praticamente a 500. Però tant'è, il segnale, inteso come segnale, è stato inequivocabile. Di questo parleremo nel corso della puntata, anche perché altri paesi hanno avuto uno spread in aumento, mi riferisco alla Francia, un nuovo record a 131 punti, il BTP francese rende il 3%, quello italiano comunque rende il 6,4% ancora, c'era stato anche un segnale preoccupante, rende 6,5% il nostro BTP, un segnale preoccupante perché a un certo momento il BTP a 5 anni rendeva come quello a 10 e questi sono segnali preoccupanti, vuol dire che tu non vai più a apprezzare il paese fra 10 anni e sei molto preoccupato del paese fra 5 anni, questo per tradurre in italiano. Dopo le dichiarazioni di Ferrara anche il BTP è sceso al 6,49%. Questo tema principale, parleremo anche dei primi bilanci bancari e come sempre della borsa che vede andare molto bene Mediobanca più 5,36, Azimut più 4,3, Intesa più 3,20, Ansaldo più 3, Tenaris più 2,80, Fiat più 2,5, Fondiaria più 2, Buzzi Unicem più 2,5, Unicredit più 2, Generali più 1,80, Fiat più 1,70 come Pirelli, Eni più 1,70, Campari più 1,60. Chi perde parecchio è Monte dei Paschi, qui bisognerà fare un approfondimento prima o poi sul Monte dei Paschi, sulla situazione, sul ruolo della fondazione, meno 4,14% a 29 centesimi di euro, meno 1,66 di Assorin, meno 1,12 A2A, Popolare Emilia Romagna meno 0,93%, 349-238-6666 per i vostri sms. E allora le notizie in breve. Allora, giustamente un ascoltatore scrive, ma quando Berlusconi però ha smentito le dimissioni, la borsa non è ricrollata. Allora, attenzione, sì, Berlusconi ha detto che vuole vedere in faccia chi gli voterà contro e porrà la fiducia, ma se dobbiamo dirla tutta, quello che sta girando a Roma, e poi ne parleremo con i nostri ospiti come indiscrezione, è che Berlusconi porrà la fiducia su un documento che è sostanzialmente il documento inviato a Bruxelles, lettera inviata a Bruxelles, dopodiché un secondo dopo va al Quirinale e si dimette, ma almeno ottiene la fiducia su quelle che sono le linee guida del governo. E tanto non è mistero, il candidato più papabile per prendere il posto di Berlusconi è il sottosegretario Gianni Letta, da tutti indicato come la quadratura del cerchio, con c'è chi ipotizza anche un ingresso dell'UDC a questo punto nel governo. Per cui quelle di Berlusconi sono state parziali smentite, ha detto: non ho mai deciso di presentare dimissioni, voglio andare in Parlamento e vedere chi mi vota a favore e chi mi vota contro. Allora, di questo parliamo tra un minuto, raccontando anche la cronaca minuto per minuto. L'oro, le tensioni hanno spinto il lingotto sopra i 1772 dollari l'oncia, siamo ai massimi da 6 settimane, anche se ancora sotto il livello di record. Il petrolio è a 94,4 dollari al barile, confermato lo sciopero dei benzinai, ve l'ha detto il nostro GR. Domani però c'è un incontro alle 11 al Ministero dello Sviluppo Economico. Allora, quanto ci costerebbe rifinanziare il nostro debito con i tassi al 7%? Beh, ci costerebbe nel 2012 quasi 9 miliardi di euro in più rispetto a un rendimento come era quello precedente, cioè attraverso il 5%. 9 miliardi di euro in più, che significano mezza manovra finanziaria, significa due volte tutto il gettito che arriva dall'IVA aumentata al 21%. E poi altre due notizie di carattere internazionale. In Germania non è una bella notizia questa, e cioè la produzione industriale in Germania a settembre è letteralmente crollata. Le previsioni erano di un meno 0,9 e qui invece abbiamo fatto un meno 2,7% per la produzione industriale tedesca. Attenzione, perché al di là poi di Berlusconi, non Berlusconi, il governo, la lettera a Bruxelles, il vero tema, e devo dire che il primo a evidenziarlo è stato l'OCSE, è la non crescita economica dell'area euro il prossimo anno. L'OCSE stima un più 0,3% come media dell'area euro, vuol dire che alcuni paesi faranno più 1, la Germania per esempio, altri paesi, se la media fa meno 0,3, andranno in recessione, ed è una recessione che nessuno si attendeva, perché da sempre si è detto 2008 anno disastroso, 2009 disastroso, 2010 recupero, 2011 addirittura 2012 fuori dalle secche della recessione. No, dentro di nuovo, a giudicare dalle previsioni, e purtroppo il dato tedesco conferma questa previsione. Devo dire che questo significa poi un peggioramento anche del deficit e del debito italiano, perché il deficit e il debito vengono misurati in base al PIL, non solo italiano, anche del resto dell'area euro. Ma insomma, attenzione, che non è che tutto cambierà passato il governo Berlusconi. Chi pensa questo compie un peccato di ingenuità o di malizia o di semplice stupidità. I problemi resteranno tutti. La Francia invece annuncia un piano di rigore, risparmi per 100.000 euro l'anno. La Francia ha un deficit messo peggio del nostro in rapporto al PIL, e aumento dell'IVA anche in Francia e tasse per le imprese. Lo ha annunciato il premier francese François Fillon, il nuovo piano di rigore per risparmiare appunto 100 miliardi di euro e arrivare al pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero nel 2016. Noi abbiamo promesso che ci arriveremo nel 2013. Però stiamo a vedere, basterebbe arrivarci vicino, diciamo. Volete sapere dell'appello dell'imprenditore per comprare obbligazioni? Lo avremo nostro ospite. Oggi la giornata non si presta moltissimo, però vediamo. Lo avremo nostro ospite. L'appello è sicuramente un appello che ha un senso, a mio avviso. Se ogni italiano comprasse alcuni migliaia di euro di titoli di Stato italiani, praticamente con 20 milioni di italiani avremmo fatto tutto il fabbisogno dello Stato per l'anno prossimo, che è tra i 200 e i 300 miliardi di euro, se ognuno comprasse qualche migliaio di euro di BOT, BTP o CCT. Devo dire che sarebbe anche un'operazione intelligente, secondo me, perché cioè, se fallisce l'Italia, allora chi se ne frega, cioè, però è difficilissimo che un'obbligazione italiana possa essere a rischio. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, partiamo dalla Grecia, perché in Grecia di nuovo caos, il governo le dimissioni, e poi andiamo avanti con gli altri temi. C'è chi scrive, lei parla come se Berlusconi se ne fosse già andato. No, ho raccontato come si sono mossi i mercati, gli spread, i rendimenti dei BTP all'annuncio di Giuliano Ferrara, che era un problema di ore, di minuti, le dimissioni di Berlusconi. Ora, Giuliano Ferrara è da sempre stato anche ministro in un governo Berlusconi, vicinissimo, consigliere di Berlusconi, mica l'hanno detto i leader dell'opposizione. E poi ho aggiunto, attenzione però a pensare, sicuramente l'Italia ha un problema di credibilità, e questo lo vediamo da quando il governo ha perso le amministrative a giugno e ha perso il referendum e ha messo sotto, diciamo, scacco il ministro Tremonti. Da allora tutti gli indicatori, cioè gli spread, iniziano a schizzare. Fino a quel momento lì erano 240 punti, andate a vedervi i grafici, sono inequivocabili. Fino a giugno l'Italia viene vista meno a rischio rispetto alla Spagna, dopo le amministrative, il referendum e, tra virgolette, l'assedio a Tremonti, partono gli spread, superiamo anche la Spagna e da lì non è più finita. Detto ciò, si illude o è in malafede chi pensa che, andando via Berlusconi, i problemi della mancata crescita italiana, della spesa pubblica, della casta che non fa i tagli, del pubblico impiego, dell'evasione fiscale, vengono risolti. Attenzione, servirà un governo estremamente serio, estremamente tecnico. Comunque, primo tema, la Grecia. Ancora vedo. Metti le mani avanti. No, non metto le mani avanti. Vittorio D'Arold, buonasera innanzitutto. Buonasera. Ormai un paese, un nome, sì. Non dico una faccia, una razza. Io dico un paese, una voce. Dobbiamo occuparci di Grecia anche oggi. Prima o poi tra me e te finirà questo connubio, non che lo chieda, ma insomma, perché questi vanno alle elezioni. Papandreou non è riuscito nello scacco matto, obbligare il referendum, farsi dare una fiducia sulla disperazione e blindare il governo, anzi gli si è rivoltato contro, l'Europa le aveva minacciato, la Germania, di bloccargli i fondi, e insomma Papandreou va a elezioni. Sì, Papandreou ha fatto una mossa veramente incredibile. Da gambler proprio. Effettivamente, perché dunque al vertice di Bruxelles lui è uscito e ha fatto un piccolo, una piccola dichiarazione, una conferenza stampa alle 4 di mattina del 26 ottobre, dicendo: un'era nuova si apre alla Grecia. Che cosa era successo? Gli avevano dato 130 miliardi, 30 dei quali soltanto per ricapitalizzare le banche, che si aggiungevano ai 110. Gli davano anche la divisione in metà di tutto il debito posseduto dai privati, grandi istituzioni, cioè erano 208 miliardi, diventavano 100. Insomma, si vedeva un percorso, non dico a ostacoli, ma insomma un percorso che era fattibile, perché gli venivano dati 230 miliardi. E quindi effettivamente aveva la possibilità, diciamo, di tornare in patria e dire: signori, i sacrifici che vi chiedo sono stati in qualche modo ricompensati. E si arriva quindi alla parte finale. Prima domanda, perché la borsa di Atene guadagna l'1,7% oggi? Perché scommette sul fatto che arrivi Lucas Papademos, che è un tecnico, è stato vicepresidente della BCE e quindi è stato il numero due di Trichet, ed è stato quello che in qualche modo ha salvato il sistema bancario greco, perché accettava collaterali i bond greci, poi ha accettato anche quando vi ricordate le agenzie di rating le hanno buttate giù, poi quando le hanno fatte diventare junk bond e lui li ha presi lo stesso, e a quel punto ha detto: non solo prendo come collaterali, ma se del caso comincio a comprare bond anche sul mercato secondario, quindi tengo su nonostante tutto ancora una volta i bond greci, perché a quel punto era proprio una questione di tenere in piedi l'euro. Ma il vero problema, la vera scommessa, è che quando Papandreou ha detto faccio il referendum, ha rimesso in discussione tutto quello che si era discusso in 4 giorni a Bruxelles, cioè una riunione in 4 giorni di 27 capi di Stato e di governo, perché ci sono stati tutti, poi ci sono stati quelli dell'Eurozona. Nel momento in cui ha rimesso in discussione tutto, è stato richiamato a Cannes al G20 e Sarkozy e la Merkel gli hanno detto: tu sei libero di fare quello che vuoi, ma a questo punto è dentro o fuori. E quindi si è rotto, in una settimana, si è rotto il tabù che uno Stato non possa essere buttato fuori dall'euro. Questo è il punto, è questo che in qualche modo lui non ha capito. Lui ha tentato il colpo dicendo: tanto questi mi salveranno perché le banche francesi hanno 55 miliardi di obbligazioni, quelle tedesche hanno 35 miliardi di obbligazioni greche, dico, a quel punto mi salveranno. Non ha capito che intanto le banche si sono già posizionate con un 50% in meno di rimborsi, cioè stanno già a bilancio, hanno messo il fatto che le obbligazioni greche renderanno il 50% in meno del loro valore nominale. Quindi, esatto. E la borsa, questo ha già bastonato le banche sia francesi che tedesche, e non ha capito che a questo punto l'Europa era disponibile anche a ragionare su una Grecia fuori dall'euro. Devo dire che fa bene ricordare come, tra l'altro, potrebbe arrivare già oggi il nome del nuovo premier. Sì, potrebbe arrivare già. C'è un incontro oggi previsto tra Papadimos, che tra Papandreou e Samaras. Antoni Samaras, che è il leader della Nea Dimocrazia, cioè il partito di opposizione. Esatto. E Papandreou, che è appunto leader del PASO, che è il Partito Socialista, è premier. Dopo questo incontro, se ho ben capito, potrebbe arrivare il nome del nuovo premier greco, con ogni possibilità l'ex vice direttore della BCE, Lukas Papadimos, che piace a questo punto ai mercati. Sì, perché conosce i mercati. Cioè, l'errore veramente grave che ha fatto Papandreou è stato quello di ancora una volta ragionare in termini di elettori e di in qualche modo interno, cioè una politica interna, domestica. Cioè lui è tornato e ha detto: adesso per far passare questo misero di austerità terribile, perché riducono del 40% gli stipendi, mandano a casa 30.000 dipendenti statali, insomma non è uno scherzo, è veramente una austerità di quelle vere. Cosa succede? Che lui ha cercato di mettere in difficoltà il partito appunto conservatore, che continuava a fargli l'opposizione dicendo: non firmare. Con il referendum lo avrebbe costretto a dire: sì, sono con l'Europa, perché il partito conservatore fa parte del Partito Popolare Europeo, fa parte della grande famiglia dei partiti popolari con la Sarkozy e la Merkel. Ma per fare un gioco interno ha mandato all'aria tutto. Ecco l'errore che in qualche modo resta, cioè l'Europa è fragile dal punto di vista istituzionale, cioè abbiamo ancora politiche interne per risolvere problemi europei. Sì, diciamo che la vicenda greca lo dimostra chiaramente. No, una risposta la voglio dare anche agli ascoltatori che dicono: ma insomma, a questo punto vuol dire che chi decide i governi, si chiami Grecia, si chiami Italia, è il mercato, è la borsa, sono gli spread. Beh, anche, ma è sempre successo così, cioè se un paese, allora, o tu decidi di essere una specie di isola autarchica e non hai rapporti finanziari con il resto del mondo, ma visto che il 40% del nostro debito è in mano a stranieri, abbiate pazienza, è chiaro che questa cosa pesa. Non è che l'Europa va bene solo quando ci dà i fondi per lo sviluppo e non va bene nel resto, è sempre successo. Qualcuno si ricorderà nel 92 che cosa capitò quando venimmo cacciati nemmeno da Bruxelles o dagli spread, da due o tre finanzieri. Uno si chiamava George Soros, scommisero sull'uscita della lira dallo SME, dalla banda d'oscillazione. Così avvenne, loro guadagnarono miliardi, noi dovevamo fare manovre di emergenza, finanziarie monster da 100 miliardi, e i governi tecnici si alternarono, no? Amato, Dini, Ciampi. E questo era fu il risultato di un attacco dei mercati, in quel caso solo di due o tre speculatori grandi, nemmeno tutti i mercati. È ovvio che in questo momento lo spread a 500 rende impossibile un governo, se è per colpa del governo, cioè andare a pagare 9 miliardi in più l'anno prossimo di rendimenti sui titoli di Stato per trovare finanziatori, ditemi voi se si può fare. Ma questo è normale, vale per un governo di centrodestra, centrosinistra. Papandreou di centrosinistra è un socialista, eppure il mercato non ha fiducia in lui. Dipende se il governo ha credibilità dei mercati oppure no. È una variabile anche quella. Nell'economia globalizzata, piaccia o non piaccia, è così. Grazie Vittorio D'Arold, e adesso, grazie a voi. Visto che parlavi di Europa, ci spostiamo in Europa, perché questa sera c'è il vertice dell'Eurogruppo, ma ci sono state nuove frizioni tra Bruxelles e l'Italia proprio sulla lettera che il governo ha spedito la settimana scorsa. Sì, la signora greca, la cettina Livi, la riavremo ospite in questi casi. Veramente, quando parliamo di governo greco, ma a noi la nostra ospite, gentilissima, simpaticissima, dalla Grecia, serve soprattutto per raccontarci la vita quotidiana. In questo caso stavamo ragionando sulle alleanze e il nuovo governo greco possibile. E anche in questo caso, come per l'Italia, si può dire la borsa e i mercati festeggiano l'ipotesi che Papandreou se ne vada e venga l'ex numero 2 della Banca Centrale Europea. Dicevo, le tensioni tra Italia e Bruxelles, perché insomma oggi, tra l'altro, l'Italia sarà l'oggetto del vertice dell'Eurogruppo di questa sera. Arriverà il ministro Tremonti con i dettagli della lettera di impegni. Domani ci sarà il vertice Ecofin, cioè anche i ministri dei paesi che non fanno parte dell'euro ma sono in Europa. Allora, ha iniziato oggi l'Unione Europea dicendo: non commentiamo la situazione italiana, aspettiamo che arrivi il ministro Tremonti. Poi però, sempre l'Europa ha aggiunto: ci aspettiamo che oggi Tremonti spieghi all'Eurogruppo i dettagli della lettera, perché la lettera ha i principi ma non ha i dettagli, cioè non ha le misure attraverso le quali tu arriverai a fare quello che hai promesso, dalla mobilità per gli statali alle norme sul licenziamento, sull'articolo 18, non ci sono i dettagli. E continua Bruxelles: la lettera inviata dall'Italia ha dei limiti oggettivi. Io mi chiedo solo perché non l'abbiano detto la settimana scorsa quando gliel'abbiamo mandata. Comunque, non è che fosse così lunga da leggere. La lettera inviata dall'Italia ha dei limiti oggettivi. Non c'è, ad esempio, un'analisi economica delle misure o l'impatto sul bilancio e nemmeno i dettagli della riforma del lavoro. Cioè, non vengono analizzate in maniera economica le misure, né l'impatto che avrebbero sul bilancio e anche, appunto, come intendete operare la riforma del mercato del lavoro. Su questo Bruxelles ha già inviato a Roma un questionario per chiedere chiarimenti sulla lettera. Sentiamo il portavoce del commissario degli affari economici e monetari dell'Europa, Olli Rehn, e lui è Amadeo Altafaggi. Indeed, Italy will be part of the discussions this evening in the Eurogroup meeting. Senza dubbio, l'Italia sarà uno dei temi in discussione all'Eurogruppo di stasera. Aspettiamo di sentire dal ministro Tremonti i dettagli degli impegni contenuti nella lettera inviata all'Unione Europea e precisamente ai presidenti Barroso e Van Rompuy. Per soddisfare il mandato che è stato dato alla Commissione, abbiamo inviato un questionario a Roma, alle autorità italiane, per chiedere chiarimenti sulle misure indicate nella lettera di intenti presentata al vertice del 26 ottobre. Allo stesso tempo si chiedono indicazioni anche sul maxi emendamento. In particolare, il questionario chiede chiarimenti su tempi, azioni concrete e ricadute sul bilancio delle misure che sono state proposte. Sono essenzialmente questi gli elementi del questionario. La missione di monitoraggio della Commissione europea sarà a Roma questa settimana. Questa missione è indipendente da quella di verifica trimestrale del Fondo Monetario Internazionale, ma siamo chiaramente in contatto. Siamo autonomi, ma coordinati con l'FMI. Ma non è una missione comune. But it's not a joint mission. Antonio Poglio Salimbeni, altra voce per un altro tema, ossia i dubbi di Bruxelles. Buonasera, corrispondente di Radio Corriere sulle 24 ore da Bruxelles. Buonasera Antonio. Buonasera a voi. Allora, mi toglie una curiosità, io non voglio sempre essere polemico, però, ma come mai si sono accorti solo ora dei limiti della lettera che gli abbiamo mandato la settimana scorsa? No, beh, più che verifiche, più che mettere in luce i limiti, secondo me adesso si tratta di siamo in una fase operativa. Nella lettera presentata da Berlusconi al Consiglio europeo c'erano c'erano la definizione degli impegni, accompagnata per la maggioranza di questi impegni, delle cifre e delle tabelle di marcia. Adesso si tratta di scendere nel dettaglio. Quindi non, secondo me non è una grande novità, non è che adesso Bruxelles si sveglia dopo il G20 e dice no, non bastano gli impegni, no, adesso si tratta di passare al fare dopo aver detto e dichiarato. Allora, le perplessità sono sull'operatività, poi sentiremo anche Altafagi su... anzi, sentiamolo adesso di nuovo e poi ti faccio commentare, perché gli sto chiesto anche al portavoce del Presidente della Commissione Affari Economici che cosa capiterebbe, qual è, se hanno dubbi che l'Italia potrebbe non rispettare le misure, le promesse fatte se avesse il governo Berlusconi. Non possiamo prevedere ciò che accadrà a livello politico, ma abbiamo un compito da svolgere e agiamo su questa base. Il nostro staff sarà a Roma questa settimana per avere chiarimenti da parte delle autorità italiane attualmente in carica. Se la situazione politica cambia, sarà l'Eurogruppo a prenderne atto e a dirci cosa fare. Ciò che non cambia ai nostri occhi è la diagnosi della situazione economica in Italia. La missione è di natura tecnica. È una missione in cui i nostri esperti incontreranno alti funzionari di diversi ministeri, per esempio delle finanze o del lavoro. Non devono incontrare Berlusconi e nemmeno Tremonti, perché gli esperti devono analizzare i dettagli della lettera. Sarà poi il commissario Rehn, a livello politico, che presenterà il rapporto all'Eurogruppo. Le conclusioni politiche saranno tirate qui a Bruxelles sulla base delle indicazioni tecniche raccolte dai nostri esperti a Roma. Le conclusioni d'ordre, je dirais, plus politique seront tirées ici à Bruxelles sur base dell'information tecnica recueillie par nos experts a Roma. Allora, Antonio, quali sono, cioè, veramente l'Europa può essere indifferente alle ipotesi circolate di un Berlusconi che domani va a dimettersi, domani o mercoledì, e obiettivamente non hanno timori che l'Italia possa non mettere in pratica quanto promesso? No, secondo me se c'è qualcuno che pensa che l'uscita di scena di Berlusconi sia positiva, non lo direbbe, perché non potrebbe dirlo, perché ha perché Ari ha una posizione istituzionale. Qui il messaggio di stamattina è molto chiaro, e peraltro il messaggio all'Italia è uguale in tutto e per tutto a quello che è stato dato alla Grecia, no? Che indipendentemente da chi governa la baracca, quegli impegni vanno attuati, né più né meno. Dopodiché a domanda ma allora la missione a Roma, appunto, ci sarà lo stesso anche in caso di crisi di governo domani o dopodomani? La risposta è: la missione, i funzionari di Bruxelles non devono incontrare né Berlusconi né Tremonti, devono andare a vedere al Tesoro, al Ministero del Lavoro, all'Istat, alla Banca d'Italia e dove altro, raccogliere una serie di elementi che gli permetta di capire qual è la tabella di marcia, qual è il percorso che le autorità italiane intendono seguire. Il problema, naturalmente, è che le uniche autorità italiane che sanno dove voglio andare a parare sono quelle in carica, quindi c'è un elemento, diciamo, di ambiguità. Sta di fatto che la Commissione europea ufficialmente si attesta sulla posizione: ci sarà pure una crisi di governo, cambierete pure governo se volete, questa è una scelta sulla quale Bruxelles e l'Europa non possono, certo, interferire. Dopodiché il governo che verrà, se ci sarà, avrà sul tavolo quel documento lì, quegli impegni lì. Cioè, per noi, inteso come Bruxelles, nulla cambia, perché avete scritto una lettera e noi su questo vi crediamo. Dovete dimostrarci come farete a realizzare quella lettera, quindi l'impatto economico, l'impatto sul bilancio, i decreti e come vorrà riformare il mercato del lavoro. Cioè, quello ci serve, la parte operativa. Che ci sia il governo Berlusconi o un altro governo, poco importa. Chiarissimo, ha ragione che scrive: ormai siamo finiti dal preside, perché prima ci hanno fatto i richiami, poi sono andati dall'insegnante, adesso siamo dal preside. Noi, la Grecia, siamo quelli più bacchettati in questo momento d'Europa. Avete notato che la Spagna è scomparsa dalle preoccupazioni di Bruxelles. Grazie intanto, Antonio, poi essere bene in collegamento con noi da Bruxelles. Arrivederci. È mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua. Allora sì, felicità a momenti e futuro incerto, perché vedo che c'è chi scrive... è palese la sua soddisfazione nel caso Berlusconi se ne vada, e c'è chi scrive in realtà si vede benissimo che lei cerca di difendere Berlusconi, perché ho detto che di non illudersi che tutto cambi, tutto sia a posto, che l'Italia torni a crescere solo perché va via Berlusconi. Bisognerà fare riforme importanti, scontentare alcuni e parecchi anche, e stringere la cinghia, tutto qua. Comunque, se per voi va bene che ho votato Berlusconi e che allo stesso tempo sono soddisfatto perché se ne va, andiamo avanti così. Meteo, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. :17:43 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, qualcuno aveva scritto prima tra gli ascoltatori: ma come mai quando Berlusconi ha smentito l'intenzione di dimettersi non si sono mossi gli spread e i rendimenti? Eccolo accontentato, il rendimento ha toccato dei BTP a 10 anni un nuovo record storico al 6,68%, sto guardando, e lo spread è tornato a 486 punti, ok? Dopodiché non è che vorrei fare tutta la puntata raccontando spread e rendimenti, ma questa è la situazione. La borsa subito. La borsa, dicevamo, positiva a Milano e ha girato in positivo quando, ripeto ancora per l'ultima volta, Giuliano Ferrara ha scritto sul sito online del Foglio che le dimissioni di Berlusconi erano un problema di minuti o... di ore. C'è chi dice che sia stato un tentativo per vedere come avrebbero reagito i mercati. Hanno reagito tutti quanti bene i mercati, sia obbligazionari che azionari, piaccia o non piaccia. Più 1,32% Milano, mentre Parigi perde lo 0,60%, Francoforte pure, Londra meno 0,40%. Onorevole Michele, Radio Corriere Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Lasciamo stare le considerazioni politiche per un attimo. Monte dei Paschi meno 4,30%, Monte dei Paschi è piena di obbligazioni ma ha anche qualche problema con la fondazione. Esatto, Monte Paschi, nelle scorse settimane abbiamo visto che l'EBA, ovvero l'autorità europea, ha indicato che necessiterebbe di un rafforzamento del capitale di 3,1 miliardi e siccome oggi i titoli sono precipitati del 4,28% a 0,29 euro, vorrei indicarti che la capitalizzazione di Rocca Salimbeni è quest'oggi pari a 3,1 miliardi, ovvero proprio il rafforzamento che l'EBA aveva già indicato fosse necessario. Che dire, cioè la banca ovviamente ha titoli di Stato in portafoglio, andando male i titoli di Stato ovviamente ci si preoccupa per la stima dell'istituto, ma al di là di questo già 10 giorni fa i vertici di MPS avevano indicato che i 2,1 miliardi raccolti la scorsa estate con l'aumento di capitale non verranno più utilizzati per il rimborso dei Tremonti Bond, ricordiamo pari a 1,9 miliardi e a questo punto però sorgeranno una serie di problemi visto che l'istituto dovrà continuare a pagare gli interessi e dovrà pagare interessi più salati pari all'8,5% se non li rimborserà nelle prossime mensilità. Insomma, un po' di nodi da sciogliere che sono problematici. Poi, come hai detto tu, sì. Se gli utili ovviamente si ridurranno non fluiranno liquidi, non fluiranno cash nelle casse della fondazione certo. Che è già indebitata e quindi ha necessità proprio dei dividendi della banca. Sì, è pesante il calo oggi, Monte Paschi, anche perché è l'unica banca a calare così tanto. La Popolare Emilia Romagna perde lo 0,34, la Popolare Milano guadagna lo 0,41 e Monte Paschi meno 4,30. Vediamo le altre banche che sono... In sostanza Intesa San Paolo più 2,84%, Unicredit più 1,90, ne ho dimenticata qualcuna, Mediobanca più 5,36, Azimut più 4,71. Di Mediobanca parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta, Eleonora Micheli, Mediobanca più 5,36%. miglior titolo delle sì, settimane. Sì, esatto, Mediobanca si è messa in luce, non ci sono motivi particolari se non un rimbalzo, del resto nelle ultime sedute i titoli avevano perso terreno, dal 27 di ottobre hanno praticamente inanellato un ribasso dietro l'altro, a parte una seduta di rialzo hanno perso oltre il 12% del proprio valore, quindi si è tornati a scommettere su queste azioni che comunque stanno a prezzi molto bassi, 5,7 euro solo a fine ottobre, stavano oltre i 6 euro. Allora, Mediaset e Fiat poi. Mediaset ovviamente riflettori puntati, le azioni hanno in verità chiuso invariate, questa mattina andavano molto male, la società è legata a doppio filo al contesto politico, ovviamente un ribaltone politico incide anche sulla valutazione dell'azienda, al di là di questo comunque ci sono anche altre vicende finanziarie, domani la società comunicherà i conti dei primi 9 mesi e c'è ovviamente molta attesa e poi ci si interroga su cosa possa decidere in merito ad Endemol, la società della quale possiede il 33%. Certo. Certo. Dopo che nei giorni scorsi Time Warner ha presentato un'offerta per circa 1 miliardo, ma ricordiamo che Endemol è molto indebitata, oltre 2,3 miliardi di debiti. Sì, no, ti correggo solo su una cosa per evitare poi di dover rispondere a decine di messaggi. Più che ribaltone politico, diciamo cambiamento politico. Ribaltone è già un giudizio e noi cerchiamo di non darle. È già un giudizio di una parte politica che ritiene che sarebbe un ribaltone, però diciamo cambiamento politico, certo. Così. No, perché sennò poi mi lasci, mi devo rispondere per mezz'ora a di tutto. Ultimo titolo Fiat, rapidi, non invisibili ma rapidi. Fiat più 2,9%, sono andate bene anche le Fiat Industrial più 2,15%, anche in questo caso ovviamente si tratta di un rimbalzo che guardando i prezzi alla fine è anche un rimbalzino. Comunque oggi è andato bene anche un po', ha tentato di andare bene il comparto auto europeo, sul finale poi anche altri titoli europei hanno rallentato il passo, le Fiat appunto hanno cercato di rialzare la testa, comunque i titoli di Fiat SPA stanno a 4,26 euro, livelli molto ridotti. Grazie donna Michele, Radio Corriere sulle 24 ore. Noi restiamo in tema di finanza e di bilanci perché oggi con Banca Generali si è aperta anche quella che si chiama in gergo la stagione delle trimestrali, cioè i bilanci dei primi 9 mesi dell'anno. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Banca Generali, Giorgio Girelli, buonasera. Buonasera. Dunque, voi avete 23 miliardi di patrimonio gestito, capitalizzate 820 milioni in piazza affari più o meno e siete, anche se non come maggioranza assoluta ma come maggioranza relativa sì, controllate dalle Generali, più al 47% e poi c'è un altro 15% attraverso varie società delle Generali. Allora, non a caso vi chiamate Banca Generali. Meno 15% l'utile nei primi 9 mesi, qualche segnale di miglioramento per il finale d'anno o no? Ma diciamo che questo meno 15% per noi è un risultato decisamente, anche il mercato da quello che ho visto l'ha interpretato bene, nel senso che noi l'anno scorso avevamo fatto un utile di 60 milioni ai 9 mesi, con dentro una one-off fiscale di 6 milioni per l'ammortamento del goodwill di un'acquisizione di Banca del Gottardo. Quest'anno, al netto di quello, il calo dell'utile del 5%, quindi molto positivo, considerando che il mercato chiaramente ci ha colpito nelle componenti volatili, le performance fees, il risultato di trading che sono calate del 70%. Un risultato molto buono perché è fatto esclusivamente di gestione industriale della banca, che in questo momento direi che è molto molto importante. Ecco, una domanda per quello che riguarda invece, poi arriviamo magari a un suo giudizio sulle tensioni di mercato, in questo momento lo spread di nuovo 487 sì. punti, magari dopo GR, però state anche voi stringendo l'erogazione del credito alle imprese oltre che persone fisiche, perché a noi questo risulta da molti imprenditori, tassi praticati dal 7-8% fino a punte del 13 quando vengono dati i soldi, perché ormai io le posso dare un giudizio esterno, nel senso che nel nostro modello di business non fate... noi facciamo attività di impiego, abbiamo circa 600 ma è per questo che glielo chiedo garantito. Ma diciamo, io quello che vedo dall'esterno vedo che c'è in atto un fenomeno di repricing, di cosiddetto repricing delle condizioni aumentate le condizioni di impiego da parte delle banche. Repricing vuol dire che aumentano i prezzi. Sì. Aumentano, cioè, è un modo elegante per dire che la stretta sul credito c'è. Sì, io però direi che le banche, guardate una cosa, cioè con le attuali dinamiche dell'economia è ovvio che la rischiosità dell'impiego si sta innalzando moltissimo, quindi essendo il tasso di impiego una conseguenza della rischiosità, credo che bisogna riflettere anche su questo. Mm. Allora, dopo il GR vorrei sapere invece il suo giudizio sui movimenti di mercato anche di oggi, sul nostro spread e sulle nostre tensioni. Dunque, c'è un ascoltatore che scrive: lurido bastardo, no, a me non si preoccupi, cioè a me, non a lei. Non correggere la tua collega che ha detto la verità. Un altro governo contro Berlusconi sarebbe un ribaltone, chiaro? E poi aggiunge: non posso dire. Complimenti per il francesismo, mi sembra di aver colto la sua velata critica, però devo dire che ribaltone è un giudizio, cambio di governo è un dato oggettivo, se mai dovesse avvenire. GR e poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vorrei concludere l'intervista con l'amministratore delegato di Banca Generali per avere un suo giudizio, al di là adesso della banca, su quello che è successo oggi. Spread prima ai massimi storici, vicini a quota 500 punti, poi scesi quando Ferrara ha fatto sapere tramite il sito del Foglio che Berlusconi stava per dimettersi, e risaliti adesso a 487 punti con rendimenti dei nostri BTP di nuovo altissimi al 6,67%. Prego. Io credo che la giornata di oggi sia una evidente dimostrazione della situazione estremamente tesa e nervosa che caratterizza il nostro debito pubblico. Questo è evidentissimo, cioè la giornata di oggi ha vissuto di rumori, smentite di rumori e poi quant'altro, come lei ha detto. Io credo che sul debito pubblico italiano la componente, diciamo, psicologica e emotiva stia pesando tantissimo. Io però, se lei me lo consente, no? Credo che questa tematica noi non la possiamo inquadrare, vedere solamente a livello Italia o di prima della Grecia. Io credo che tutto quello che stiamo vivendo sul debito pubblico vada visto all'interno di una grandissima trasformazione geopolitica del mondo. Non dimentichiamo che i paesi del G7, tra cui noi, hanno emesso l'80% del debito pubblico mondiale, che pare circa 50 trilioni di dollari, e noi produciamo il 56% del PIL mondiale, però abbiamo il 16% della popolazione. Credo che ci sia un problema di accumulo di debito pubblico nei paesi sviluppati gigantesco, e quello che stiamo vedendo sia un sintomo di questa questione, ma credo che vederla oggi solamente a livello Italia non la riusciamo a vedere tanto bene. No, no, sono d'accordissimo, anche perché anche in Francia, pur essendo a un livello molto basso, lo spread è tornato a un livello record, 131 punti, prima o poi l'America dovrà rientrare dal suo deficit stellare oltre il 10% e non potrà continuare a stampare moneta col quantitative easing, insomma, è chiaro che nel frattempo chi sta comprando debito europeo, cioè Francia, Italia, Spagna, oddio, sempre meno Italia, e debito mondiale si chiama Cina, si chiama anche India, Giappone. Ecco, no? Beh, non per dare una chiave di ottimismo, perché di solito non lo faccio, no, però mi sembra, io rispetto per esempio a luglio, io adesso vedo che la situazione si sta definendo nel suo reale contorno, molto meglio che a luglio. A luglio si pensava che questo, prima ancora che iniziasse l'allargamento delle strade italiane, si pensava che questo fosse un problema della Grecia, poi del Portogallo, che hanno dei bilanci molto particolari. Adesso invece mi sembra che ci sia una coscienza che questo è un problema globale, e io credo che il passo assolutamente indispensabile per affrontare materie difficilissime come questo sia comprendere l'esatta dimensione. No, io la ringrazio di questa analisi, perché prima mi sono beccato anche delle critiche, perché ho detto: attenzione a pensare che eventualmente dimessosi il mercato, ci scommette Berlusconi, ci sarà un miglioramento, perché sappiamo che i mercati, oggi la dimostrazione è palese, sono scettici anche su questo governo, ma attenzione a pensare che a quel punto lo spread torni a 200, i rendimenti scendono al 4,5 e tutto va bene, madama la Marchesa. No, non è così, le prospettive di crescita italiane e anche dell'area euro per il 2012 sono allarmanti, lo 0,3% in media, che significa stagnazione, dato OCSE di 2 settimane fa. Grazie però e in bocca al lupo a tutti i dipendenti, oltre che a lei chiaramente. Grazie, all'amministratore delegato di Banca Generali Giorgio Girelli. Allora, vogliamo raccontarla di nuovo per chi si fosse messo in collegamento questa giornata. I mercati aprono male Milano subito in apertura e lo spread schizza a prima 470 punti, poi va addirittura a 490 punti, cioè vicinissimo al 500 punti. Ripeto, a inizio agosto, quando tutto sembrava crollare, eravamo preoccupatissimi di uno spread a 412. Mo stiamo contenti perché da 490 scende a 470. Dopo l'annuncio di Giuliano Ferrara sul sito del Foglio, invece appunto lo spread scende a 470 punti, la borsa gira in positivo, da un meno 1% va a un più 0,7%, poi ha chiuso con un più 1,32%. Di nuovo però, dopo che Berlusconi ha detto non ho nessuna intenzione di dimettermi, voglio porre la fiducia e voglio vedere in faccia i traditori, lo spread è tornato a salire a 486 punti adesso, i rendimenti delle obbligazioni al 6,70%. Se noi dovessimo andare a cercare finanziatori per il nostro debito con un rendimento di BTP al 7%, all'8%, questo vorrebbe dire pagare 8 miliardi in più l'anno prossimo. Per la precisione, con un rendimento delle BTP ci siamo vicini, perché 6,70% è vicinissimo al 7%. Al 7% lo Stato italiano dovrebbe pagare in interessi 8 miliardi e 700 milioni di euro in più per le scadenze del nostro debito, cioè per rifinanziare una parte del nostro debito l'anno prossimo. Nei prossimi 12 mesi dobbiamo rifinanziare quasi 300 miliardi di debito. Corrado Passera, anche su questo oggi, mentre ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento da un lato l'editorialista del Corriere della Sera Antonio Polito. Buonasera Antonio. Buonasera. E grazie anche a Stefano Folli, editorialista e commentatore politico del Sole 24 Ore e anche di Radio 24. Buonasera anche a te Stefano. Buonasera. Corrado Passera, sulla situazione, sulle scelte del governo. Io spero che vengano prese le decisioni che siano nell'interesse del paese. Insomma, chiaramente l'Europa e un po' tutto il mondo vuole convincersi che l'Italia fa sul serio, che è capace di darsi una discontinuità di impegno e di coraggio, soprattutto sul fronte della crescita. Ovviamente come questo possa realizzarsi politicamente non sta a me dirlo, però certamente noi abbiamo il dovere di dire che cambiamo marcia velocemente. I mercati e un po' l'opinione pubblica di tutto il mondo vuole vedere un paese più unito, legato su un programma concreto di crescita dell'economia e di creazione di posti di lavoro. Guardate, questo del tema del lavoro, del disagio occupazionale che si è creato nel nostro paese, della rabbia di troppi nei confronti di una classe dirigente che non sa produrre sviluppo, è un tema che nessuno deve sottovalutare. Allora, prima domanda per i miei due ospiti, poi dopo il traffico una parte un po' più articolata. Vorrei un aggiornamento sulla situazione spread e mercato al di là di questo. Stefano Folli, ti risulta domani la fiducia, come Berlusconi ha detto, sulla lettera inviata a Bruxelles e poi potrebbe salire il Quirinale, o sarà un Berlusconi che vorrà, come ha detto, vedere in faccia i traditori? No, lui vuole vedere in faccia i traditori, ma domani si va verso il voto sul rendiconto generale dello Stato e poi la fiducia sarà dopo e sarà collegata comunque alla questione della legge di stabilità, quindi mi pare di capire che il Presidente del Consiglio da un lato fa questo gesto molto forte, no, chiedendo ai fuggitivi di guardarlo in faccia mentre gli votano la sfiducia, dall'altra parte però tende a guadagnare tempo perché sta cercando di recuperarli, alcuni di loro almeno, non so se ci riuscirà francamente, però sta cercando di recuperarli, quindi sta pattinando, da una parte cerca di mostrarsi ancora diciamo al timone, forte, saldo al timone, cosa difficile da dimostrare, dall'altra parte sta operando per cercare di limitare i danni, spera ancora di riuscire, quando ci sarà questo voto di fiducia, non domani, di mantenersi ancora in sella oppure di cadere bruciando le ipotesi intermedie e guidando la barca verso le elezioni anticipate. Cioè ipotesi intermedie dici il governo Letta o Monti? Sì, governi di questo genere, attenzione. Antonio Polito, anche per te, hanno ragione i mercati a scommettere su un Berlusconi che va al Quirinale oppure con le ultime dichiarazioni, come ricordava Stefano Folli, la situazione diventa molto più interlocutoria? Ma a me pare che i mercati avevano scommesso su Berlusconi andare al Quirinale, poi quando è giunta diciamo questa smentita da parte di Berlusconi medesimo hanno un po' diciamo così raffreddato il loro entusiasmo, naturalmente bisogna intendersi, l'entusiasmo non è perché i mercati sono anti-berlusconiani, l'entusiasmo è perché i mercati si aspettano diciamo così un cambiamento di passo, un po' come diceva Massera prima. Io credo che sia giusta diciamo, la seconda chiave interpretativa che ha dato Folli, cioè io credo che in ogni caso Berlusconi abbia deciso di non favorire alcuna soluzione intermedia, cioè abbia deciso di bruciarsi i ponti alle spalle e quindi in caso di caduta del governo di puntare dritto alle elezioni anticipate il più presto possibile, ed è per questo che non si dimette, perché le dimissioni diciamo così aprirebbero una fase politica nuova in cui Berlusconi e il PDL continuerebbero un po' a dare le carte, ma dovrebbero dare le carte, cioè dovrebbero giocare al tavolo di nuovo governo, mentre invece questa soluzione è un po' la stessa che usò Prodi quando cadde tre anni e mezzo fa, è quella di andare fino in fondo, farsi battere dalle Camere in modo da rendere chiaro che non c'è una maggioranza possibile e dunque bisogna andare allo scioglimento. Allora, dopo le informazioni sul traffico, ho ancora due domande per voi. Intanto questa scelta di resistere finché non vai sotto alla Camera, che è una scelta assolutamente legittima, istituzionale, insomma noi abbiamo governi parlamentari, a che cosa potrebbe portare? Ma poi mi interessa anche il tema che tu, Antonio, toccavi su Corriere della Sera di tre giorni fa, una terra sconosciuta, cioè la terra incognita del dopo. E allora lì, se si va a elezioni, vabbè, quello sarà sulla base di schieramenti elettorali, ma altrimenti, perché qua le risposte, Bruxelles manda già da domani e anche il Fondo Monetario brevissimo, gli ispettori, chiamali così, in Italia, oggi ha chiesto chiarimenti e li chiederà stasera al ministro Tremonti nel vertice dell'Eurogruppo su come intendano mettere in pratica gli italiani quello che hanno scritto in questa lettera. Io non so se ce l'abbiamo tutto questo tempo, ma la risposta vostra la voglio dopo il traffico. Allora, Stefano Folli, se si va a elezioni, per carità, il governo sarà quello elettoralmente eletto. Ma quanto tempo abbiamo? Perché io non vorrei che domani dopo si tornasse a ragionare su uno spread a 500 punti, rendimenti di quel livello. E soprattutto, quale sarebbe la terra meno incognita a cui consegnare il governo del paese? Il punto debole di tutto questo discorso che stiamo facendo è quello che ha scritto Antonio Polito, quello che anch'io scrivo sul Sole, cioè che non c'è un'alternativa chiara a questa lunghissima stagione vissuta nel segno di Berlusconi. Non è che c'è un governo pronto che può prendere il posto di quello eventualmente dimissionario di cui stiamo parlando. Che siamo in una situazione di crisi virtuale non c'è il minimo dubbio, che Berlusconi è alla fine della sua corsa non c'è dubbio, che i mercati gradirebbero moltissimo voltare pagina è evidente, ma non c'è una soluzione pronta. In Grecia Papandreou è uscito di scena e immediatamente è subentrato un governo di unità nazionale. Da noi non c'è questa situazione e questo determina innanzitutto l'incertezza di cui stiamo discutendo, ma anche la difficoltà di intravedere una soluzione a breve scadenza che non siano le elezioni anticipate. È chiaro che quello che diceva prima Passera nella dichiarazione ce l'auguriamo tutti, cioè che ci sia un governo ampio, solido, capace di affrontare i problemi del paese. Purtroppo dal punto di vista strettamente politico non c'è ancora questa, diciamo, dimensione, non è stata individuata, e tantomeno è stata individuata una persona che sia in grado, non virtualmente ma concretamente, di mettere insieme questa ampia, vasta maggioranza. Allora, Antonio Pulito, vediamo se riesco a beccarmi altri insulti di berlusconiano, perché oggi ho preso sia gli insulti di berlusconiano che di anti-berlusconiano, va bene così. Però, alla luce di quello che diceva appena detto Stefano Folli, la terra meno incognita sarebbe quella, diciamo, di mantenere un governo che va fino alle elezioni a questo punto. Cioè, se noi non siamo nella situazione greca, dove appunto oggi accordo tra maggioranza e opposizione, arriva un nuovo premier che piace ai mercati perché è stato vicepresidente della Banca Centrale Europea. E hanno già fatto tutto. Papandreou ha fatto una scommessa, l'ha persa col referendum e lascia la scena. Sarebbe meno incognita una terra, diciamo, con una crisi che si apre così al buio, o una terra in cui resta Berlusconi, che comunque è nella fase declinante e difficilmente riuscirà a fare quello che ha promesso nella lettera? Ma intanto, come dire, è inutile parlare di auspici di fronte alla realtà, nel senso che il governo è attaccato alla macchina per respirare, insomma, indipendentemente dai nostri auspici, non ha più una maggioranza, o comunque se ce l'ha in maniera rocambolesca di un mezzo voto. Oltretutto i mercati sembrano aver collegato nettamente la durata di questo governo alla crisi del debito pubblico. Non credono più, e devo dire la verità, credono neanche gli italiani, credono più che questo governo possa riprendersi e riprendere in mano la situazione. Non so, oggi non è stato presentato neanche il maxi emendamento alla legge di stabilità alla Commissione del Senato, una cosa decisa nel Consiglio dei Ministri, l'ultimo, drammatico e così via, Tremonti non l'ha ancora consegnato. Quindi, indipendentemente dagli auspici miei, tuoi e di chiunque, la realtà è che un governo non c'è più, e devo dire la verità, ormai da qualche mese. Una delle ragioni per cui non c'è più è che il ministro del Tesoro e il presidente del Consiglio non si parlano più, e anzi si fanno gli sgambetti reciprocamente. Quindi, indipendentemente dalla fragilità della situazione, non credo che sia auspicabile che duri questa specie di imbalsamamento del governo. Pur condividendo ovviamente tutte le preoccupazioni che diceva prima Folli, che dicevi tu. Cioè, scusami, tu dici meglio anche una crisi tra virgolette al buio, cioè in cui Berlusconi... Ma meglio no, perché sai, non è che la stiamo provocando noi, non è che dobbiamo decidere l'attacco, la crisi sta avvenendo al buio. Sì, sta avvenendo, perché stanno scappando via una serie di parlamentari del PDL, gli stessi capi del PDL non hanno più fiducia nella possibilità di rimettere in piedi il governo, e lo stanno dicendo da giorni a Berlusconi, implorandolo di dimettersi, di tentare di salvare la baracca per il PDL con un altro governo esponente del PDL, a guida di un esponente del PDL. Quindi, diciamo così, è inutile discutere noi se è meglio o peggio, è così, il governo non c'è più. No, ma mi chiedevo, visto l'ipotesi di Folli, appunto, tu dici tanto non c'è più, che senso ha questa agonia? Stefano, la stessa domanda anche per te, cioè più incognita una terra in cui Berlusconi rischia di beccarsi una crisi al buio, e cioè di essere sfiduciato in Parlamento come avvenne a Prodi, dover andare al Quirinale e poi passeranno dei giorni a cercare un governo tecnico, non lo so, oppure meglio andare a elezioni, o è più incognito andare ad elezioni a gennaio e far 3 mesi ballando in questo modo? Ma io penso che quando non ci sono soluzioni concrete, le elezioni in democrazia sono l'unica via d'uscita. Insomma, si fanno le elezioni, si restituisce la parola al popolo e poi si fa punta a capo. E se non si vuole percorrere, per ragioni varie anche comprensibili, questa strada in una situazione molto difficile come quella che qui stiamo vivendo, occorrerebbe che in questi giorni, ma già dovrebbe essere avanzato questo lavoro, si definisse una possibile maggioranza alternativa a Berlusconi. Di unità nazionale, cioè l'UDC dentro. Sì, ma mi sembra molto difficile, perché per adesso il PDL, che è in gran parte ancora controllato da Berlusconi, non ci sta, quindi occorre immaginare una cosa diversa. E neanche la Lega, visto Maroni ieri. La Lega certamente no. Quindi dovremmo immaginare un governo del centro-sinistra più i centristi di Casini, più quelli che lasciano in queste ore il PDL. Possiamo immaginare tutto, però certo non è che sia una strada facile, e soprattutto non è che abbia molti precedenti. Ecco, quindi... Grazie, io ringrazio Antonio Polito, editorista del Corriere della Sera, Stefano Folli, editorista del Sole 24 Ore. Auguro a voi in ascolto una buona serata, buono spread. Domani staremo a vedere come va sto benedetto maledetto spread, che ha 487 punti adesso. E intanto Focus tornerà dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.